Con Giorgia Mazzucato, autrice e interprete dello spettacolo Guerriere, in scena dal 26 al 28 gennaio al Teatro Stabile di Roma. Giorgia, ben ritrovata. Evviva, buongiorno a tutti, ciao, grazie. Allora, per chiarezza con chi ci ascolta, raccontiamo un po' di cosa si tratta. Allora, lo spettacolo è uno spaccato della Prima Guerra Mondiale dal punto di vista delle donne che l'hanno vissuta. Diciamo che l'origine di questo spettacolo, è relativa a un mio pensiero sul fatto di ma le donne, tra il 15 e il 18, cosa facevano? Perché sui libri di storia noi conosciamo benissimo quello che facevano gli uomini, ovvero combattevano, erano al fronte, ma le donne in tutto questo che cosa facevano? Ho avuto poi una meravigliosa spinta da parte di Franca Rame, che ho avuto l'onore, il piacere e la meraviglia di conoscere. Lei mi ha ispirato questo lavoro, ho cominciato a fare una sorta di ricerche, libri di storia, diari. E ho preso come riferimento 10 donne che hanno vissuto all'epoca, dalla regina alle contadine, e ho cercato di creare tre personaggi che potessero racchiudere le vite di queste, in particolare 10 donne. Ed è nato una ricerca storica, diventata poi spettacolo. Vabbè, me lo dico da sola, me ne rendo conto, ma è interessante. Senti, quindi esiste materiale storiografico? Hai cercato in vari archivi? Ne esiste tantissimo. Poi io sono di Padova, quindi posso dire che nella mia terra, nel Veneto, poi anche nel Friuli, dove si cammina, si respira ancora la Prima Guerra Mondiale. Quindi al di là dei nonni e bisnonni che l'hanno combattuta, mio bisnonno per esempio l'ha combattuta in scena, o dei suoi oggetti che aveva in trincea, ci sono tantissimi archivi, tantissimi documenti, tantissime lettere dal fronte e lettere di risposta di queste donne che non solo attendevano i mariti che tornassero dal fronte, ma combattevano loro stesse da casa. Per esempio, c'è la storia delle portatrici carniche, che erano queste donne che lavoravano appunto sulle Alpi Carniche e portavano rifornimento di cibo e di munizioni, di armi, tutte le mattine partivano dal paese, andavano al fronte con la gerla. E ho trovato dei diari, in particolare un diario di una portatrice che si chiamava Maria Plotzner Mentil, e descrive in una maniera incredibile, poetica, straziante, coraggiosissima, quello che era il lavoro di queste donne che avevano dai 16 ai 70 anni, che si caricavano questi chili, chili sulle spalle, camminavano sul ghiaccio per portare i propri mariti e alla propria patria, diciamo, una speranza nel riuscire a non solo vincere, ma concludere questo abominio di guerra. Giorgia, oltre al genere, ci sono altri elementi che le accomunano? Queste donne? Sì. Ma allora, diciamo che io ho cercato di creare questi tre personaggi che sono appunto creati ad hoc, non sono realmente esistiti, ma tutti parlano di storie vere. C'è un'aristocratica, una borghese e una portatrice carnica, quindi di estrazione sociale molto bassa. Hanno storie completamente diverse, ma sono accomunati da un patriottismo inizialmente fortissimo, perché molti italiani, molte italiane all'inizio della guerra erano, decisamente innamorati della patria, innamorati dell'ideale dell'Italia. E mano a mano una cosa che le accomuna è, la disillusione nei confronti di questo sogno, di quest'idea di una guerra che possa rendere l'Italia un posto migliore, un posto più forte. Quindi c'è questa disillusione e questo coraggio enorme, incredibile, che dimostrano queste donne che combattono. Una delle storie è anche questa ovviamente vera, di una donna che si traveste per andare al fronte. Ce n'erano, non solo in Italia, anche nel resto dei paesi che hanno combattuto la Prima Guerra Mondiale. E quindi c'è una forza enorme, un amore gigante che viene mano a mano, colpo dopo colpo, proiettile dopo proiettile, scende, scende, scende, fino ad arrivare appunto a questa disillusione incredibile nei confronti del proprio paese, nei confronti dell'umanità, si può Giorgia, dire, perché sappiamo quante persone siano morte, insomma. in questa ricerca storiografica ci sono delle scoperte che ti hanno sorpreso? Ma allora, sicuramente questa della portatrice carnica, nonostante appunto sia un qualcosa che anche a livello geografico mi era molto vicino, appunto le Alpi Carniche sono veramente vicino a casa mia, mi ha veramente toccato poi leggere le parole stesse di una di queste, è stato veramente fortissimo. Ci sono anche delle storie strazianti di prostitute, perché si sa, non del tutto, ma si sa che c'erano anche proprio le case ad hoc di prostitute nelle sono delle testimonianze di queste donne che fanno, come dire, questo di lavoro, questo per la patria, e ci sono dei dati veramente impressionanti sulla loro mole di lavoro. E un'altra cosa che mi ha scioccato, che non conoscevo assolutamente, e parlando in generale anche con amici o pubblico, critici, giornalisti, che si sa poco, è questa storia degli internamenti che venivano fatte dalle autorità italiane, quindi all'interno della guerra che l'Italia sta combattendo contro l'esterno, quindi contro il nemico austriaco, c'è anche una guerra interna tra italiani e italiani sostanzialmente. Quindi le autorità militari internavano le donne e di vario genere, donne dal carattere iracondo oppure delle sindacaliste. Perché? Perché avevano paura che in qualche modo all'interno di questo contesto della guerra, che aveva, come dicevo prima, disilluso le persone, magari potevano essere di impiccio ai piani alti, perché sì, avere qualcuno che è contro la guerra all'interno della stessa patria non è una cosa buona. Quindi c'erano queste donne, quasi 4.000, sono state prese e internate, non solo nel senso di manicomi, ma nel senso di, per esempio, sono state mandate in Sardegna o in Sicilia, che 100 anni fa erano molto deserte, mi permetto di dire, e sono delle storie allucinanti, perché appunto, come dire, una guerra intestina con queste donne che venivano prese e cancellate totalmente dalla propria vita senza alcun tipo di processo, ma solo perché si erano permessi di piangere, perché il marito non c'era più, perché la guerra è ingiusta, eccetera, eccetera. E questa è stata una scoperta che io, assolutamente in maniera ignorante, non sapevo assolutamente nulla di questo tipo di racconto, fin tanto che non mi sono imbattuta nella, come dire, nella ricerca e nella creazione di questo testo. Questo e altre cose, questo è forse una, sì, di quelle più, sì, scioccanti per me. È uno spettacolo che ha una sua storia, un suo percorso. Che tipo di riscontri ha avuto? E poi sono previste, immagino, altre date nella stagione. Sì, allora, il riscontro diciamo che è stato molto buono. Ho fatto diverse date. Adesso questo spettacolo da qualche mese è stato patrocinato dalla Presidenza del Consiglio, proprio perché, come dire, simbolico di quello che è stato, che è il centenario dal 18 al 2018. Quindi diciamo che ha avuto un riconoscimento storico e una valenza civile. In più c'è la supervisione storica di Aldo Cazzullo, che a mio parere è uno dei più grandi studiosi e scrittori della Prima Guerra Mondiale. Ha scritto dei libri straordinari con lui ho avuto proprio modo di poter parlare di queste storie, della condizione delle donne. Ho fatto molti spettacoli in giro per l'Italia, e prevalentemente anche appunto in Veneto, in Friuli, in cui c'erano delle celebrazioni per determinati anniversari della Prima Guerra Mondiale. È uno spettacolo che funziona perché davvero credo ci siano delle pagine di storia fondamentali. Noi durante la scuola ne possiamo, per questioni proprio di tempo purtroppo, studiare solo una parte, però nel momento in cui noi davvero abbiamo la curiosità, l'interesse, il coraggio di andare a sviscerare un po' quello che è stato un fatto storico, fatto di persone, conseguentemente non solo di uomini ma anche di donne, ci immergiamo in una realtà che ci è inaspettata, tanto inaspettata quanto utile per cercare di non ripetere più gli stessi abomini, cosa che abbiamo fatto poi pochi anni dopo con la Seconda Guerra Mondiale. Sì. Però diciamo che il riscontro da questo punto di vista è stato buono, perché è una cosa che in linea di massima, appunto, alcune di queste storie che già sto raccontando a te e a voi non si conoscono. Conoscere una storia vera che non si conosce è, secondo me, una delle cose più importanti del teatro in generale come missione, cioè il fatto di portare un qualcosa al pubblico, di regalare anche solo uno spunto di riflessione, di modo che lo spettacolo ti si appiccichi addosso e quando tu esco dalla sala c'è qualcosa che ti ha smosso dentro, che ti ha cambiato un punto di vista o ti ha aperto una porta qualsiasi. Ci lasci i tuoi riferimenti rispetto allo spettacolo e alla tua attività in generale su internet? Allora, il riferimento posso dare la produzione dello spettacolo, che appunto è una produzione del Teatro Stabile di Roma, quindi trovate tutte le informazioni su www.teatrostabilediroma.it, c'è anche la mail per le prenotazioni, e trovate tutte le informazioni lì sui biglietti, sugli orari. Comunque questo weekend 26, 27, 28 dalle ore 21 al Teatro Stabile di Roma, via Assisi 33. Benissimo, Guerriere di e con Giorgia Mazzucato. Giorgia, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi, grazie mille, buona giornata.